Gilbert, ¿dónde es el merengue? Va a poner las maracas, pues. Ay, ay. Y volvieron los del taquiti, taquiti, ta. Uy. ¿Sabes? Ay. Con las que prenden la fiesta. Las maracas, las maracas. Qué rico. El alma, ay, de la fiesta. Son todas. Las maracas, las maracas. Vamos. Más rico de la orquesta. Las maracas siempre suenan en la noche. Voy con ellas en mi coche. Va el trasnoche, va el derroche. Solo esperan que las cojan, que las saquen de su estuche. Que las prendas con el ritmo de la salsa. Yo las toco y ellas suenan así. Así. Así. Así. Así. Hey Gilbert, Gilbert, tírame la otra pista, la rompelona. Ahí Amalia. Gilbert ya abre pa' Chile. Vamos, vamos. No le creo. Gilbert, tráeme las maracas. Una pa' ti y una pa' mí. Una pa' ti y una pa' mí. O dos pa' ti y dos pa' mí. Ay. Takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, takiti, taki